Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti e benvenute a Mebius, che questa sera inizierà parlandovi di fusione, quella nucleare. Però prima sentiamo i titoli. Firmato questa settimana l'accordo Italia-Russia per il reattore a fusione nucleare Ignitor. Ne parliamo con il padre del progetto, Bruno Coppi. Sughero, vetro o sintetico? A vite? All'Università di Udine si studia da più di 10 anni il modo migliore per tappare le bottiglie di vino. Una ricetta per nanomotori molecolari. L'Università di Milano Bicocca ha messo a punto un vetro dalle proprietà sorprendenti. Una nuova curiosa scoperta. Il cervello umano, quello dei vermi e i chip del computer possiedono la stessa struttura a matriosca. Un cagnolino magico nato dalla fantasia di 500 bambini di diversi paesi europei. È il mio amico Boo, il personaggio animato che spiega ai bimbi come risparmiare acqua ed energia. Professor Bruno Coppi, buonasera. Buonasera. Immagino che sarà contento. Beh, naturalmente è un passo avanti notevole, infatti sono arrivate congratulazioni. Da tutte le parti. Da tutte le parti del mondo. Allora, aspetti che non l'abbiamo ancora introdotto, professor Coppi. Allora, lei lavora negli Stati Uniti da molto tempo, da quanto? Più di 30 anni? Ah sì, molto di più, sono venuto appena laureato. Appena laureato. Ed è uno dei ricercatori nel campo della fusione più importanti a livello mondiale. Però lei ha da tempo un suo progetto di reattore a fusione che è molto diverso da quelli di cui si parla di più, come per esempio ITER, che dovrebbe essere il grande reattore che tanti paesi, l'Europa principalmente, puntano a costruire, che dovrebbe dare la prima macchina, diciamo, commerciale. Molte indicazioni per la prima macchina commerciale. Invece il suo progetto Ignitor è qualcosa di diverso, è qualcosa di più piccolo, che potrebbe essere quindi implementato più rapidamente. E adesso c'è un accordo appena firmato questa settimana tra Italia e Russia per metterli in atto, insomma, cioè si può incominciare a costruire. Ecco, se permette, devo correggere la cosa. ITER non è un reattore commerciale. No, lo so, dovrebbe darci le indicazioni. Ma no? Non lo so. Questo perché ITER ha rinunciato da anni a raggiungere le condizioni di accensione. E questa è una condizione necessaria per fare un reattore capace di produrre energia. Certo, lei appartiene a quelli molto critici sul progetto ITER, non siete pochi, va bene. No, ma non è questo, è il fatto che è la verità. Certo. Ed è stata diffusa una descrizione delle finalità di ITER che non corrisponde a quello che di fatto si farà, lei dice. Che di fatto. È una macchina di grandi dimensioni, quindi studierà dei plasmi di grosse dimensioni. Però se lei vuole arrivare a produrre energia, deve passare attraverso le forche caudine dell'accensione, ovvero un plasma che è come una stella, che lei non inietta, in cui non inietta nessuna energia e rimane acceso. Certo. ITER non può fare questo. E l'equivalente del programma ITER, che noi abbiamo continuato a seguire, è quello dell'esperimento di Fermi fatto a Chicago. Lì era la questione della criticità del reattore fissione. Anche quello era un piccolo esperimento, però era il passo obbligato. Certo. E questo... L'altra cosa che volevo dire, gli italiani spesso chiedono perché avere sviluppato la presentazione di Ignitor, perché c'è una tradizione di ingegneria elettromeccanica molto forte. E questo è essenziale perché Ignitor impiega delle tecnologie di campi magnetici elevati, che è essenziale per poter produrre questi plasmi, questi miscele di deuterio e trizio che sono in grado di accendere. Quindi lei dice Ignitor di fatto può essere il vero primo passo verso la fusione. Quanto, secondo lei, esatto, partendo adesso, quanto ci si può mettere per vedere questa macchina in funzione? Ma le cose si vedono già, dipendono molto dalla burocrazia, cioè sia Velikov, che il mio partner russo, che è un grande scienziato, una persona molto, e che io vorremmo fare qualcosa entro la scadenza di questi due governi, che sono completamente d'accordo. Poi ci sono le burocrazie. Va bene, ma ammettiamo di muoversi velocemente. Va bene, ammettiamo di però se potesse andare via liscio, cosa vuol dire entro questi due governi in termini di anni? Entro la scadenza dei due governi, cioè entro 3 anni dovremmo raggiungere delle fasi costruttive molto avanzate. Devo dire che noi abbiamo da parte italiana completato il progetto e fatto i prototipi scala 1-1 con l'industria, quindi sappiamo che la macchina è costruibile e siamo in grado di dare gli ordini subito. Quindi da è molto russa, rapido. Hanno già gli edifici pronti, perché loro hanno iniziato in precedenza un'impresa simile alla nostra, cioè gli era piaciuto a loro e è piaciuto il nostro approccio. Quindi non partiamo da zero. E quindi voglio dire, perché ricordiamolo, abbiamo già detto, ma questa macchina è piuttosto piccola rispetto alle altre. E rispetto a ITER, per esempio, il volume del plasma è 80 volte più piccolo. Ma non solo, sì, i russi, che noi utilizziamo strutture e personale esistenti. No, le dico questo, che qualcuno mi ha detto, ma quando poserete la prima pietra? È stata posata molto tempo fa. C'è già una location? C'è già un luogo dove... Ah, no, no, c'è non solo, ma l'edificio. Il posto si chiama, è un centro che si chiama Trinity, con la I alla fine, ed è a Troitsk, a circa 20-30 km da Mosca. E lì ci sono già delle strutture, esperimenti, e in particolare delle persone di grandissimo valore. Quindi affidare loro il funzionamento della macchina, dato il loro passato, è una cosa assolutamente... Ottima. E sicura. Senta, professor Coppi, siccome il tempo è un po' tiranno, però noi da questo momento vi seguiremo passo passo per vedere cosa Grazie. Combinate. Ma le chiedo questo, però, molto rapidamente: mi dia un numero. Entro 3 anni si potrebbe avere la macchina, e entro una decina d'anni potremmo avere dei risultati, insomma, abbastanza interessanti, probabilmente. Ma... direi certamente di sì. Vogliamo assolutamente questo. Adesso dovrò, appena abbiamo finito la nostra intervista, chiamare Roma, perché abbiamo bisogno di accelerare i tempi. I tempi. Beh, insomma, devo dire, da questo punto di vista il governo è molto d'accordo. È sensibile. Beh, insomma, certo, per ITER si parla di 2040, 2050, insomma, qui siete decisamente prima. Allora, tanti auguri e vi seguiamo da vicino e vediamo cosa combinate. Va bene, grazie. Grazie, professor Coppi, arrivederci. Il problema rimane, ed è di lunga data. Le religioni, non la religiosità, e coloro che si dichiarano depositari del messaggio che le religioni diffondono, non perdono l'abitudine di avere un pessimo rapporto con la scienza e la conoscenza. E quindi la natura è spesso interpretata, piegata per sostenere tesi alquanto bizzarre, ma poi le conseguenze sono gravi, attenzione. Dopodiché ci si sente perfettamente sereni nel poter affermare che le cose dette sono quelle che Dio vuole comunicarci. Una bella responsabilità, insomma, se la prendono. Alhamdulillah al-qa'il fi kitabihi al-aziz. Dunque, quella che sentite è la voce di un sermone tenuto da un mullah. Siamo in una moschea a Gaza, ma questo sermone è trasmesso dalla televisione di Hamas. È di una decina di giorni fa. E che cosa si sta dicendo in questo sermone? Si dice che in Europa c'è stata una nuvola che ha bloccato i trasporti. E l'origine di questo fenomeno sono le truppe di Allah che hanno colpito gli infedeli e i pagani, seminando terrore e paura. Si dice anche che ci sono stati morti e distruzione, il che, come sappiamo, è un'informazione del tutto priva di fondamento, ma del resto in questo sermone direi che tutto è possibile. E poi ad un certo punto veniamo informati del fatto che quello che Allah ha scatenato in Europa nasce dalla stessa volontà che sempre Allah manifestò quando decise la grande inondazione ai tempi di Noè. Che dire dunque? Beh, certamente anche allora, per i trasporti, deve essere stata una settimana difficile. California, Texas, New York, Alabama, Connecticut sono alcuni degli stati americani nei quali ci si può sposare fra cugini primi, ma sono molto di più, 24. Comunque anche in Italia ci si può sposare fra cugini primi, civilmente. Con rito ecclesiastico bisogna avere una dispensa del vescovo. Tuttavia ho iniziato a citarvi gli Stati Uniti perché una ricerca molto recente ci dice che l'idea che il matrimonio fra consanguini così stretti sia geneticamente molto pericoloso per la progenie è un'idea definitivamente sbagliata. Meglio, non esageriamo in ottimismo. È sbagliata quella diffusa convinzione che la probabilità di malformazioni genetiche sia praticamente certa al 90%, perché questa è la credenza in circolazione. Non è così. Per esempio, la spina bifida, che è una grave malformazione della spina dorsale, è un rischio intorno al 3-4% nelle nascite in coppie non imparentate. Per quelle imparentate si sale al 7%. Non è proprio insignificante, però non è il 90%. Un'attenzione maggiore bisogna averla nel caso in cui si appartenga a una comunità ristretta, perché ci sono delle zone nelle quali una certa patologia è più presente che nella normalità, nelle altre zone. In Inghilterra le ricerche hanno evidenziato un caso che è diventato famoso. Negli ultimi anni si sono avute circa 1000 nascite di bambini in Inghilterra con gravi patologie neurodegenerative e l'8% di questi si è trovato nella cittadina di Bradford, i cui abitanti però rappresentano soltanto l'1% della popolazione inglese. Allora in quella zona chiaramente la situazione è più pericolosa. E poi bisogna stare anche attenti a non esagerare in assoluto. Perché? Perché in alcuni paesi del mondo, come il Medio Oriente, Africa o Asia, ebbene, lì sposarsi fra cugini è quasi un'abitudine e dai 2 ai 6 matrimoni, pensate, su 10 sono di questo tipo. Allora qui le cose si complicano perché le probabilità ovviamente aumentano. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Pronti al nostro gioco che oggi è rotatorio. Siamo al quiz. Siamo allora alla domanda. La Terra, il nostro pianeta, non è proprio sferica. L'equatore è un po' più grassa, cioè il raggio è più grande di quanto non sia l'altezza della Groenlandia. Ma questo rigonfiamento vale anche per le acque degli oceani? Prima risposta, sì, e quindi ci scriverete sì. Seconda risposta, no, ci scriverete no. Terza, dipende dalla posizione della Terra nella sua rivoluzione intorno al Sole, quindi durante l'anno, quando è più vicina al Sole, l'acqua è più alta e ci scriverete sole. Dove? Beh, l'SMS è sempre lo stesso, 349-238-6666, il libro che si vince questa settimana. Elogio dell'imperfezione di Rita Levi Montalcini, edito da Baldini Castoldi Dalai. In collaborazione con IBS.it. L'ho imitato abbastanza bene, non so, però parleremo di questo, non vi dico nemmeno di che si tratta. Ecco, sentite Chiara Albicocco. Pochi giorni fa si è tenuto un convegno a Udine dal titolo Progetto per la valutazione dello stato evolutivo dei vini in funzione di diversi tipi di chiusure tradizionali e innovative. Insomma, ci racconta tutto quello che è un po' il mondo del tappo e delle chiusure delle bottiglie il professor Franco Battistuta, che è ricercatore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell'Università di Udine, che ha coordinato questi studi. Buonasera professore. Buonasera. Dunque, voi proprio recentemente avete presentato questi studi che durano da anni su quello che sono le chiusure tradizionali e non delle nostre bottiglie di vino. Sì, in realtà non siamo ancora arrivati alla parola fine, però il progetto è nella fase finale, è un progetto di 3 anni finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. E cosa molto importante, cofinanziato da una serie di aziende enologiche di primaria importanza del territorio. Lo studio in sé in realtà va avanti da molti più anni, in quanto si può dire che noi sono quasi 20 anni che lavoriamo nel settore delle chiusure. Sì. Che tipo di studi fate sulle chiusure? Siamo partiti diciamo un bel po' di anni fa, quando il mercato era riferibile praticamente solo al sughero, con i problemi di cessione del gusto di tappo al vino e tutto quello che andava a contorno sotto l'aspetto tecnologico e sotto l'aspetto sensoriale. In quel caso lì, mi scusi se la interrompo, il sapore di tappo da cosa dipende? È colpa del tappo? Il sapore di tappo dipende da un attacco di muffe, di funghi, al sughero in una qualsiasi delle sue fasi di lavorazione, che può andare dalla pianta fino alla fase proprio in azienda durante la trasformazione delle plance di sughero in tappo finito. Il composto responsabile è il tricloroanisolo, che è appunto un metabolita di alcune muffe che può attaccare però diversi substrati. L'esempio principale di altro difetto da tricloroanisolo è il caffè. Molte volte dei caffè che hanno qualche sapore anomalo, in realtà questo sapore anomalo è dovuto al tricloroanisolo. Ho capito, va bene. Quindi torniamo alle vostre ricerche. Sì, allora siamo partiti da questa valutazione, poi lavorando nel mondo dei tappi e quando sul mercato si sono presentati dei tappi innovativi, in primis i tappi sintetici e negli ultimi anni i tappi a vite, abbiamo iniziato a valutare altre variabili, non solo il problema dei gusti anomali, ma l'evoluzione proprio che il vino ha con i diversi tappi. E tale evoluzione è modulata dalla quantità di ossigeno che il tappo lascia passare all'interno della bottiglia durante l'affinamento o l'invecchiamento in bottiglia. Ecco, prima di raccontarci i risultati, ci spiega proprio come sono avvenute le misurazioni? Cioè voi prendevate dei lotti di alcuni viticoltori, sì, e li tappavate con diversi materiali? Sì, noi abbiamo coinvolto una serie di aziende del territorio, tutte aziende che producono vini di alta gamma, e abbiamo imbottigliato 25 vini diversi con tappi diversi, in particolare con sughero, con tappo a vite in due conformazioni diverse, con tappo in vetro e con un tappo innovativo che sta uscendo sul mercato, che è nato proprio per modulare la quantità di ossigeno in grado di scambiare. E poi periodicamente, ogni 6 mesi, siamo andati a valutare l'evoluzione del vino in bottiglia, sia sotto l'aspetto chimico-fisico, ma cosa molto più importante, sotto l'aspetto sensoriale, per vedere il tipo di evoluzione, quindi come si comportava il vino e diversi passaggi di ossigeno. E quali sono stati i risultati? Ovviamente, come ci ha anticipato prima, non è la fine della ricerca, però insomma qualcosa avete scoperto. Sicuramente sì. Allora, la cosa più importante è che non possiamo parlare di tappi alternativi, secondo noi, ma di tappi complementari, nel senso che in nessun caso si arriva a una cattiva evoluzione del vino, ma si ottengono dei vini con profili leggermente diversi. Quindi tutte le tipologie hanno dei pro? Sì, sicuramente sì. Dipende, è ormai da considerare uno strumento in mano al tecnico per scegliere il tipo di evoluzione che avrà il vino. Per semplificare l'approccio, in cantina noi non ci sentiremmo di dire che l'affinamento in acciaio è meglio dell'affinamento in legno o viceversa. Ci sono dei vini che vanno bene affinati in acciaio, altri vini che vanno bene affinati in legno. Lo stesso modo per i tappi, ci sono dei vini che vogliono o pretendono il tappo in sughero, ci sono altri vini che invece presentano dei vantaggi non da poco col tappo a vite e alcuni addirittura col tappo sintetico. Anzi, forse sono strumenti proprio per valorizzare e dare un risultato ancora migliore nel prodotto. Sicuramente sì, l'evoluzione diversa può far parte della filosofia della cantina proprio. Ci sono delle aziende che preferiscono che il vino in bottiglia vada incontro verso un'evoluzione ben sensibile, in modo da sentire l'età del prodotto. Ci sono altre aziende invece che pensano il vino dal meglio di sé nel momento in cui mi esce dalla cantina e io voglio che conservi quelle caratteristiche più a lungo possibile. Queste due visioni diverse chiaramente implicano una scelta diversa dalla chiusura. Ci fa qualche esempio tra le diversità proprio fisiche di quelle che sono i diversi tipi di chiusure? Allora, possiamo dire che andiamo in ordine crescente di permeabilità. Sì. Possiamo dire che il tappo vite nelle sue diverse forme è quello che lascia passare la minor quantità di ossigeno. Quindi è quello che va sotto certi aspetti a bloccare l'evoluzione del prodotto. Quindi con tappo a vite noi avremo dei vini che tendenzialmente sono più freschi. Vini un po' più giovani, no? più giovani, più freschi come sensazioni, come sentori proprio, rispetto all'evoluzione che avrebbe col sughero. Il sughero invece dà un'evoluzione iniziale che poi rallenta nel tempo, mentre il tappo sintetico dà un'evoluzione molto più marcata e quindi è più adatto a vini che stanno poco tempo sul mercato. Ecco, lei per evoluzione intende scambio di gas, ossigeno? Sì, scambio di ossigeno. L'ossigeno che dall'esterno passa all'interno della bottiglia viene consumato dal vino e questo consumo di ossigeno porta a un'evoluzione che è quella che noi normalmente chiamiamo invecchiamento del vino. Ecco, quindi per quei vini belli corposi come il Barolo che hanno bisogno di invecchiare, qual è il tappo più raccomandabile? In questa fase il sughero dà ancora le migliori prestazioni. Su altri prodotti invece bisogna discutere un momento caso per caso. Io rimarcherei il fatto che soprattutto su vini di alta gamma la scelta del tappo non deve essere vista come una questione di risparmio. Il vite per dire costa meno rispetto al tappo in sughero. Però su bottiglie che escono da cantina a 10-15 euro non è quel risparmio di una decina di centesimi sul tappo che va a cambiare il prezzo della bottiglia. In questo caso è proprio una scelta di qualità mirata sulle caratteristiche del proprio vino, fatta dal produttore ben sapendo che è una scelta talvolta impopolare, però nel tempo secondo me paga. E negli ultimi anni si sono visti anche questi nuovi tappi di vetro, come sono questi? Li avete studiati? Sì, li abbiamo seguiti e danno delle buone prestazioni, diciamo che sono intermedi tra il sughero e il vite come caratteristiche. Contro il tappo di vetro, che ha sicuramente una bella immagine, gioca qualche fattore di tipo tecnologico, nel senso che sia la bottiglia sia gli impianti di imbottigliamento devono essere mirati proprio su questo tipo di prodotto, per cui c'è un costo iniziale, un investimento iniziale un po' maggiore, per cui son tappi di ottima qualità sicuramente, che però difficilmente inonderanno il mercato, saranno dedicati a prodotti di nicchia e di alta qualità. Un pochino più costoso, ok. Sì. Dunque, infine, per quel che riguarda invece i tappi per i vini con alto contenuto di anidride carbonica, come ad esempio lo spumante e lo champagne, il discorso è un po' diverso, perché lì bisogna proprio comprimere il gas. Sì, lì il discorso non è tanto di permeabilità quanto di tenuta della pressione nel tempo, e attualmente sul mercato si comincia a vedere qualche prodotto alternativo, però il sughero la fa ancora da padrone e penso lo farà ancora per lungo tempo. Esaurisco facendole una domanda su una curiosità personale che ho. Funziona o non funziona il cucchiaino inserito nel collo della bottiglia dello spumante per mantenerlo frizzante? No, non funziona. Niente. Diciamo che fa è un falso mito. Sì, fa un po' di coreografia così, ma non ha assolutamente nessun significato. Perfetto. Grazie professor Battistutta e insomma i vostri lavori andranno avanti e noi siamo qui a disposizione. Va bene, anche noi siamo a disposizione per chiarire qualche problema e uscire un po' da alcune leggende e vedere i fatti come sono, insomma. Va bene, buon lavoro. Grazie a lei. Ogni tanto bisogna parlare anche di queste cose, no? Dunque, c'è una crisi nella produzione di carta igienica e la colpa è di internet, per dirla sbrigativamente. Perché già da molti anni la carta nuova dipende dalla carta vecchia, nel senso che gran parte della produzione della nuova deriva dal riciclaggio della vecchia. Ma il riciclaggio è abbastanza sofisticato per fare una scelta fra i tanti tipi di carta recuperata. Una certa carta più pregiata, bianca, tipicamente la carta che proviene dagli uffici, la carta bianca delle stampanti per esempio, con degli additivi diventa carta igienica. Altra, tantissima, finisce nella carta che si usa per i giornali. Solo che molta informazione oggi va su internet e quindi si stampa meno. Allora succede che per i giornali bisogna prendere anche la carta pregiata. Questo significa che la pregiata manca per l'igienica. E qui si chiude il giro. Come dicono molti esperti della rete, internet sta cambiando tutta la nostra vita. Eh sì, è proprio così. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Boo si chiama, è un cagnolino, l'hanno pensato 500 bambini, ve ne parla Barbara Gallabotti. È possibile mettere d'accordo 500 bambini su quale sarebbe il personaggio animato che più gli piacerebbe inventare? A quanto pare sì, perché questo è proprio il modo in cui è nato il mio amico Boo, un cagnolino protagonista di 3 episodi volti a sensibilizzare i piccoli dai 5 agli 8 anni su temi ambientali come l'acqua o il risparmio energetico, oppure sugli stili di vita più sani. Il progetto è stato finanziato dalla Comunità Europea e ha visto all'opera bambini d'Italia, Belgio, Polonia, Irlanda e Bulgaria, coordinati da Explora, il museo dei bambini che abbiamo già incontrato qui a Mebius. Patrizia Tomasic, direttore di Explora, è qui con noi. Buonasera. Salve. Intanto la prima domanda: come si fa a mettere d'accordo 500 bambini? Bella domanda, però qui è stata la sfida, è stato anche molto divertente, certamente faticoso. Comunque, ecco, diciamo che abbiamo agito attraverso la nostra rete di Children's Museum, cioè di musei dei bambini, quindi abbiamo contattato i vari, quelli che hanno risposto positivamente si sono fatti coinvolgere nel progetto. La cosa bella è stata appunto la progettazione partecipata, cioè che appunto dire ai bambini: c'è un prodotto finale che si realizzerà insieme, al quale voi potrete dare un contributo importante, cioè quello di decidere voi stessi se e quali personaggi poter far animare in questo cartone animato. I bambini hanno anche espresso la loro opinione sui dialoghi, su quali dovevano essere i personaggi, sui messaggi, su come ricevevano i messaggi. Sì, guarda, una cosa interessante, ad esempio, se vediamo proprio come è partito tutto quanto, e questi personaggi, perché sono lì questi bambini, questa età, e anche soprattutto questo My Friend Boo, questo cagnolino di pezza che poi si anima, è venuto fuori proprio perché 500 bambini in Europa abbiamo fatto alcune domande: con chi vedi la televisione, con chi vedi i cartoni animati, qual è l'animale magari che tu senti più vicino, eccetera, e ovviamente è venuto fuori questo cagnolino piuttosto che un gatto, piuttosto che un cavallo, piuttosto che altra cosa, un altro animale. Ecco, diciamo che questo c'ha, ovviamente la maggioranza dei bambini hanno espresso, non so, parere positivo su il cane piuttosto, oppure su molti episodi si ambientano in un attic, come viene detto, oppure comunque una mansarda, o quello che viene detto, no, la cantina dove andare a ritrovare tutte quante le cose antiche. Quindi ecco, ci sono assolutamente dei punti di riferimento importanti nel cartone animato che sono stati scelti dalla maggioranza dei bambini coinvolti. Una volta si diceva che si investe sull'informazione verso i bambini perché tutto sommato loro sono i cittadini di domani, mentre insomma con gli adulti ormai la partita è persa. In realtà poi si è scoperto che non è solo questo il vantaggio di lavorare con i bambini. Sì, anche perché, guarda, la cosa importante è quella, noi lo viviamo tutti i giorni al Museo dei Bambini, dei comportamenti che i bambini riescono a concepire e a capire, e poi dopo sono sicuramente trasmessi e portati a casa. Ma è famosa la cosa, appunto, non so se ti ricordi, ma hai sentito in chiesto cosa, dove dicono la cintura di sicurezza è sicuramente una cosa che poi dopo il bambino, ad esempio, riconosce come comportamento corretto e trasmette anche al genitore: ecco, mamma, perché non te la metti? Ecco, veramente cose, ed è vero. Hanno un ruolo educativo verso il resto della famiglia. Al contrario, all'interno portano dei comportamenti corretti che loro sentono, che sono passati dalla scuola, oppure anche magari può essere anche dalla stessa televisione, eccetera, e li riportano e li fanno riaffermare nella famiglia. Ecco, i contenuti del cartone animato sono stati concordati col WWF, che ne ha garantito la correttezza. E poi il cartone parla di Ben, Jack e Lucy, che sono 3 bambini che hanno questo cagnolino magico, Boo, che prende vita nell'attico della loro casa. Boo porta i bambini in un viaggio d'avventura che varia di volta in volta. Come faranno i bambini a vedere questo cartone? Guarda, allora, innanzitutto abbiamo, appunto, c'è stata una visione appunto con i bambini che hanno partecipato al progetto, quindi questo è stato divertente, appunto, nella giornata mondiale dedicata all'acqua. Ci si sono riconosciuti? Sì. Guarda, è buffo anche perché poi, guarda, una cosa importante è venuta fuori, questa dell'acqua, cioè che, ed era proprio una domanda che era stata richiesta al WWF, come sentono i bambini l'educazione, cioè l'ambiente, eccetera, rispetto all'acqua. Ecco, pensa all'acqua, sì, il mare, l'inquinamento, tutto quanto è visto quello che è fuori, ma quello dopo che invece è in casa, cioè che poi il fatto che si apre il rubinetto e l'acqua scorre, no, normalmente, appunto, quella ne fa purtroppo un qualcosa per cui i bambini non lo sentono come qualcosa su cui risparmiare. Un'acqua diversa. Esatto, questo è. Ricordo che voi avete messo questo cartone animato su un sito che è www.myfriendboo.com, che sarà fra l'altro linkato ovviamente anche al sito della nostra trasmissione www.mebiusonline.eu, e qui da questo sito sarà possibile scaricare anche delle attività, delle istruzioni per delle attività da fare a latere del cartone animato, che quindi potranno essere fatte dagli insegnanti oppure anche dai genitori. Certo, questo è un, come viene detto, un teaching pack, cioè qualcosa appunto che viene fornito agli insegnanti e che può essere richiesto ovviamente gratuitamente sul sito che hai citato, e comunque anche tutti i cartoni appunto di questa serie sono offerti gratuitamente alle televisioni. Comunque noi facciamo vedere, mostriamo ai visitatori in visita appunto nelle prossime settimane, nel weekend, appunto gli episodi che poi dopo appunto facciamo seguire da dei laboratori appunto sull'uso responsabile dell'acqua. Grazie Patrizia Tomasic, buonasera. Grazie. Paola Rebusco da Boston, come va lì a Boston? Ciao, buonasera, benissimo qua. Sai che abbiamo Giovanotti? Giovanotti? Eh sì, venuto, ha fatto una presentazione ad Harvard. Ah. Sulle, sì, la relazione tra musica e diritti umani. E stasera c'è un concerto. Ce l'avete all'università, non così semplicemente di passaggio. Sta facendo un tour negli Stati Uniti, no? Sì, sì, penso che sia la fine del tour. Però hanno colto l'occasione anche per fargli parlare non solo di musica. Interessante. Interessante, è piaciuto? Sì, decisamente. Lui è simpatico, no? Sì, sì, sì. Senti, noi abbiamo titolato quello di cui ci devi parlare: il cervello umano, quello dei vermi e i chip dei computer possiedono la stessa struttura a matrioska. Santo cielo, ma è una notizia, ci butta giù tremendamente questa notizia. A noi umani. Ma no, dai, non c'è niente di male. Abbiamo delle similitudini, è interessante scoprirle. Di che tipo? Sono delle similitudini nel modo in cui vengono costruite le reti. Le reti neuronali, per esempio, nel caso del computer, le reti di comunicazione all'interno dei computer chip. E ci sono due principi che abbiamo in comune con le reti neuronali dei nematodi, che sono dei vermi. C'è il famoso C. elegans. Ah, il C. elegans. Sì, che viene sempre utilizzato. Per sì, è un vermicello a cui la biologia e la conoscenza devono tantissimo. Esatto. E poi abbiamo anche questi aspetti in comune con uno standard chip da computer. E queste proprietà sono due. La prima, come hai ben detto, è che queste strutture sono fatte a matrioska. Le matrioske sono quelle bamboline russe di legno. Esatto. Che si mettono una dentro l'altra, cioè sono tutte uguali ma sempre più piccole. Sì. Ecco, l'idea è che in queste reti ci sono gli stessi schemi che si ripetono, semplicemente uguali a se stessi ma su scale diverse, più piccoli o più grandi. Tipo il cavolfiore, no? C'è sempre la spirale è sempre più piccola, è una stessa struttura che si ripete, ho capito. Esatto. Il secondo principio è noto come regola di Rent. Ed è una regola che ci dice la relazione tra il numero di elementi in un'area e il numero di legami tra di loro. Sì. Cioè, per esempio, io ho tre palline in una scatola, come sono i legami di queste tre palline nella scatola? Sì, in un dato spazio il legame delle strutture che stanno in quello spazio, vuoi dire? Esatto, esatto. E queste due proprietà vengono seguite sia dalla struttura del nostro cervello che dalle reti neuronali dei C. elegans che dai chip dei computer costruiti da noi stessi. Quindi tre cose abbastanza diverse fra loro che però hanno la stessa struttura. Beh, mi sembra però di dire che non necessariamente hanno, come dire, la stessa valenza dal punto di vista del funzionamento, insomma. Il cervello umano qualcosa di più del vermicello fa, insomma. No, sì, chiaramente ci sono molte differenze, però è interessante anche cercare di capire le ragioni di questa similitudine. Ecco, cosa hanno pensato? C'è Edward Balmer, che è professore di psichiatria all'Università di Cambridge in Inghilterra, non qua, vicino a Boston, ha trovato questa soluzione. Sembra che queste strutture siano il modo più efficiente per creare delle reti complesse in uno spazio fisico confinato, che sia il nostro cervello o che sia la scheda di un computer, uno spazio bidimensionale. Sì, capisco. Cioè, per avere un rendimento nel trattamento dell'informazione abbastanza sofisticato, dato un certo spazio, quella disposizione lì è la migliore praticamente. Esatto, ed essendo la migliore è quella che viene scelta dalla selezione naturale e dalla selezione commerciale, nel caso dei chip dei computer. Giustamente tu sottolinei queste due cose molto lontane, perché non è che quelli che hanno fatto i chip hanno pensato al cervellino del C-Elegance o al nostro, è che però di fatto possiamo dire che in natura questa struttura è effettivamente la più efficiente. Sì, esatto, nella costruzione dei chip gli umani hanno pensato al modo più efficiente per creare delle connessioni. Mm-hmm. E questo il modo più efficiente è quello scelto dalla natura per creare le varie reti neuronali. C'è questa, del nostro cervello. Questa analogia così forte. Va bene, dov'è che suona Giovannotti? Al Paradise Club, ti racconterò. Ciao, arrivederci. Ciao, buonanotte, buona serata. Ciao. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz. La domanda era: se la Terra, che è all'altezza dell'equatore, è un po' più grassa, insomma il raggio è un po' più grande di quanto non sia per esempio l'altezza della Groenlandia, ci domandavamo, ma questo rigonfiamento vale anche per le acque degli oceani? Allora, non c'entra nulla la vicinanza al Sole. Innanzitutto, la Terra non è perfettamente sferica, perché quando si forma un pianeta non si capisce perché dovrebbe essere una sfera precisa. Invece la rotazione del pianeta fa sì che si generi una forza centrifuga che spinge verso l'esterno. Solo che, come in ogni buon moto rotatorio, dove la distanza dal centro è maggiore, la forza centrifuga è maggiore pure lei. Quindi, nella zona dell'equatore, effettivamente il mare è più alto che nella zona, poniamo, della Groenlandia. Le misure variano, ma sono anche di diversi metri, anche una decina. E se la Terra quindi si fermasse, a quel punto l'arrivo di un'onda sarebbe il minore dei problemi. Chi ci segue sa che Möbius ogni tanto parla di cucina scientifica, che però si fa con i soliti ingredienti: carciofi, pasta, zucchero. Questa di cui vi parla ora Maurizio Melis è sempre cucina, è sempre scientifica, ma gli ingredienti sono il vetro e la cucina è grande quanto un miliardesimo di metro. Prendete una parte di silice, quindi praticamente sabbia, aggiungete una parte di carbonio e una spruzzata di idrogeno, mescolate bene, lasciate lievitare e il gioco è fatto. Otterrete un materiale solido, simile al vetro, ma estremamente poroso e composto. Sembra incredibile, ma pare sia proprio così, da miliardi di rotori molecolari di dimensioni nanometriche, adatti agli usi più svariati. Probabilmente non è esattamente in questo modo che funziona, ma gli ingredienti sono questi, ingredienti quindi molto comuni. Lo chef invece è Piero Sozzani, docente di chimica industriale, che insieme agli altri cuochi ricercatori del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell'Università degli Studi di Milano Bicocca ha scoperto che è possibile realizzare materiali altamente porosi costituiti da un enorme numero di unità molecolari che si muovono come dei velocissimi rotori. Buonasera Sozzani. Buonasera. Allora Sozzani, io l'ho buttata un po' sullo scherzo, siamo di fronte a una roba molto seria, una specie, se ho capito bene, di sabbia ultrafine, quindi non parliamo di oggetti macroscopici, che però è formata da nanoparticelle a loro volta dotate di una struttura alquanto originale. Sì, è una specie di ibrido che contiene sia una parte, una componente organica, che una componente inorganica. E questo ibrido nasce sostanzialmente da bolle di sapone, in un certo senso. Cioè usiamo dei tensioattivi che servono a creare questa grandissima porosità nei materiali. I tensioattivi sono appunto delle molecole che hanno la caratteristica, se si mescola per esempio l'acqua e aria, di formare le bolle. Sono quelle alla base dei detersivi. Sì. E in questo modo si creano dei canali nanometrici, cioè della dimensione laterale di pochi nanometri, tipo 3-4 nanometri. Parliamo di miliardesimi di metro, per dare l'idea, giusto? Sì, esattamente. Milionesimi di millimetro. Certo. E i materiali sono composti a nido d'ape, cioè quindi immaginatevi tanti piccolissimi forellini come quelli delle api, ma molto profondi, e questi materiali sono estremamente porosi, cioè contengono 4 campi da tennis di area superficiale in un cucchiaino da caffè. Quindi praticamente si ha questa altissima area che interagisce con altre sostanze, può interagire con altre sostanze e quindi intrappolare per esempio idrogeno, metano e anche farmaci. Quindi è un modo per assorbire le sostanze profondamente in un materiale e poi poterle o immagazzinare oppure somministrare mediante metodi di iniezione, metodi medici, insomma, diciamo. Ecco, siamo di fronte, abbiamo detto, a una struttura porosa. Cosa c'entrano i motori, i rotori molecolari? Ecco, questo è una combinazione, insomma, di due mondi di ricerca. Uno sono i materiali porosi che studiamo da molto tempo qui nel mio gruppo di ricerca, e l'altra è quella dei materiali che, benché solidi, contengono dei rotorini che possono girare a un miliardesimo di volte per secondo, e quindi questi rotori, che sono esposti sulle pareti, possono interagire con altre sostanze, quindi essere eventualmente stimolati a fare desorbire, quindi a mandare di nuovo nell'ambiente, per esempio gassoso, le sostanze che sono state precedentemente, ecco, assorbite. Mi corregga se sbaglio, poi veniamo alle applicazioni o comunque a come funziona. Se dovessimo ingrandire uno di questi piccoli granelli, mi dica se le funziona. Sì. È come se ci trovassimo davanti a una specie di grattacielo tutto pieno di corridoi, al cui ingresso si trovano tante porte girevoli. Esatto, in un certo senso è qualcosa del genere, c'è un'architettura estremamente delicata, ma nello stesso tempo robusta e interagente con l'esterno, quindi è una specie di grattacielo in forma di particelle. Le particelle sono micrometriche o submicrometriche, quindi l'insieme, il grattacielo nell'insieme. Certo. I canalini invece sono più piccoli e sono nanometrici, per esempio di 3 o 4 nanometri. E quindi in questo grattacielo possiamo ospitare, far abitare diverse molecole. Passando quindi attraverso delle porte girevoli che in qualche modo voi riuscite a controllare, riuscite a decidere a che velocità farle girare, per esempio. Sì, sostanzialmente la velocità base è quella delle radiofrequenze, oppure ancora più veloci, e in questo caso sarebbero sollecitate da microonde. Per cui, regolando il tipo di sollecitazione, si può anche regolare la velocità di questi rotori e la possibilità di riemettere le particelle dal sistema poroso. Perché voi, controllando la velocità di queste porte girevoli, chiamiamole così, riuscite anche a controllare il tipo di molecola che entra o esce da questo grattacielo? Sì, in miniatura. Essenzialmente la dimensione dei canali è la cosa più determinante. Ah, okay. E quindi la dimensione crea una selettività, per cui per esempio si può sequestrare CO2 da metano, oppure in altri casi, cambiando un po', modulando le dimensioni, si può sequestrare il metano e purificarlo da altre sostanze. Quindi ha, diciamo, il doppio effetto di ottenere uno storage, cioè un immagazzinamento di sostanze, e quello di essere estremamente selettivi nel caso di purificazione, per esempio. Ecco, quello della separazione di un tipo di gas da un altro, tra l'altro, è un problema che appunto ha molte applicazioni, non è per niente facile, spesso è molto costoso. Ecco, senta, appunto, veniamo alle applicazioni. Che cosa ci si può fare con questa sabbietta, ammesso che si possa poi produrla industrialmente? Ecco, non so come viene prodotta adesso in laboratorio, immagino non sia una roba semplicissima. Ma diciamo, la ricetta è relativamente semplice, però per il momento ovviamente i costi non sono ancora così bassi come per una produzione industriale. Certo. In ogni caso, quello che ci si può fare è, essendo le particelle molto piccole, insomma questa piccola polverina, questa è anche iniettabile. Addirittura, e quindi corpo umano? Nel corpo umano, sì. Ci sono studi molto avanzati per quanto riguarda la dimensione delle particelle che possiamo iniettare nel flusso sanguigno, e possono andare a toccare, a essere immagazzinati in determinati organi, essere presi da alcuni organi, e poi da lì, magari irraggiando con delle radiofrequenze, possono rilasciare dei farmaci o delle sostanze, per esempio per anticancro, oppure sostanze benefiche, insomma. Lei ha appena spiegato appunto che si riesce a far ruotare queste porte con delle microonde, per esempio. Quindi prima somministrate, esatto, questa polverina che al suo interno ha il farmaco. Quando ha raggiunto l'obiettivo, sparate un po' di microonde, questa polverina rilascia il farmaco. Rilascia il farmaco su è comando. Corretto, quindi. Ecco, questa è la prospettiva che stiamo cercando di sviluppare in collaborazione con alcuni delle strutture mediche di Bicocca. Ecco, altre applicazioni? Altre applicazioni possono essere quella della sensoristica, cioè per esempio è possibile emettere delle radiofrequenze da un sistema che assorbe delle sostanze, perché noi possiamo in qualche modo rallentare i rotori a parità di temperatura nel momento in cui qualche sostanza viene assorbita, e quindi dalla velocità di questi rotori si può avere una modulazione della frequenza di risposta e quindi una registrazione di un segnale da una determinata sostanza incorporata. Abbiamo poi parlato della possibilità, diciamo, dello storage, sì, a cosa questo, pensate si possa applicare? Questo soprattutto nel caso di idrogeno e soprattutto miscele di idrogeno e metano, questa è una soluzione diciamo intermedia rispetto alle macchine combustibili ad idrogeno, nel senso che potrebbe sfruttare i motori a scoppio, no? Quindi non cambiare le tecnologie dei motori, benché modificati in un determinato modo, e produrre molta meno CO2 e quindi lavorare un po' come l'idrogeno molecolare. Perché insomma, il problema è che i gas altrimenti bisogna comprimerli in dei bomboloni molto pesanti, molto resistenti anche. Esattamente. Voi riuscite a evitare questo? In cui si immagazzina idrogeno e metano in un sistema estremamente poroso, si abbassa anche la pressione di esercizio e quindi si possono evidentemente usare delle bombole molto meno pesanti, meno diciamo che hanno dei requisiti di sostenere una pressione più bassa di quella convenzionale, quindi anche più sicure, no, ovviamente. Anche l'incidente di cui si parlava, no? Di cui si è parlato spesso, di Livorno, no? Del treno, certo, che portava GPL, ecco, anche nel caso di questi combustibili è possibile assorbire il combustibile, quindi quantomeno rallentare la combustione. Come una specie di spugna che quindi non li può lasciare sfuggire improvvisamente. Esatto, è così. Esatto, va bene, questo. Grazie Sozzani e buon lavoro allora. Arrivederci, grazie a voi. Siamo entrati nell'era dell'energia cinetica. In realtà l'energia cinetica c'è da tempo, la formazione di un sistema planetario è una delle sue migliori espressioni, per esempio. Ma qui sulla Terra, che negli ultimi tempi ha visto fiorire come mai prima si era visto l'interesse per il risparmio energetico, finalmente era ora, perché si poteva anche capirlo molto prima, ecco che l'energia cinetica sta occupando il centro della scena. Che qualcosa che si muove, in particolare ruota, possa generare elettricità, penso che lo sappiano tutti, la dinamo della bicicletta è un esempio ben noto. Però accade che due giovani imprenditrici di New York si siano soffermate a ragionare su quante porte girevoli sono disponibili nella grande mela, ed avendo scoperto che sono praticamente innumerevoli, hanno inventato un dispositivo che con piccole variazioni può applicarsi a queste porte generando elettricità. Abbiamo un'idea di quanta gente dalle 8 di mattina alle 6 di sera passa attraverso le porte girevoli di New York? Quelle che per esempio stanno alla base dei edifici di 30 piani, va bene, è tantissima, ma anche correre, quindi muovere le gambe avanti e indietro, è un bel movimento. Se ci colleghiamo a qualcosa che cattura questa energia e la trasforma in elettricità sufficiente ad alimentare il lettore MP3, ecco che risparmiamo batterie e cariche di corrente, cioè che ci sta lavorando. Cosa fanno le auto, i camion, i pullman quando corrono su autostrade tangenziali? Ognuno fa certamente qualcosa di diverso, perché ognuno va per i fatti suoi, però tutti sempre che cosa fanno? Fanno una stessa cosa, cioè fanno vento. Se collochiamo dei rotori disposti su una struttura che fa ponte sulle corsie, ecco che abbiamo un'energia eolica generata dai veicoli. C'è all'incirca un vento da 15 km orari, pare che possa servire per alimentare i consumi di un appartamento in un anno. Collocando diverse strutture di questo genere e migliorandone l'efficienza, c'è chi dice che in fondo gli edifici intorno a una tangenziale potrebbero ricavare quote interessanti di energia. La puntata è conclusa. Möbius per questa sera non ha più nulla da raccontarvi, ma solo perché è finito il tempo, perché come si dice in apertura della nostra trasmissione, il viaggio nella scienza può essere infinito. Buona serata a tutti e a tutte e arrivederci alla prossima settimana.